Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il numero dei guariti è superiore al numero dei nuovi contagiati. È una bella notizia importante che ci dice che le misure adottate stanno funzionando e che il sacrificio fatto da tanti italiani ci sta portando sulla strada giusta. Ora bisogna insistere ancora con grande gradualità, con grande attenzione e col massimo della prudenza. Teniamo duro dunque, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, avete sentito di giorno in giorno qualche buona notizia arriva, adesso l'avete sentito dalla voce del Ministro della Salute Speranza, perché i contagi continuano a scendere, anche i decessi non come si vorrebbe, ma comunque per fortuna diminuiscono. E ci occuperemo ancora della fase 2 e a proposito di fase 2 delle misure economiche, delle misure di sicurezza approntate, per esempio vi dico che poco fa è finito il Consiglio Europeo. Conte si è detto abbastanza soddisfatto di uno strumento sul quale per il momento sembrerebbero tutti d'accordo in seno all'Unione Europea e agli altri paesi, questo del Recovery Fund, che ci faremo poi spiegare esattamente in cosa consista, di cosa si tratti. E poi due cose molto importanti. Vaccino, vi ricordate che nei giorni scorsi qui a Effetto Notte avevo ospitato il direttore scientifico del laboratorio di Pomezia, che in partnership con l'Università di Oxford ha messo a punto un vaccino che oggi hanno cominciato a sperimentare sugli esseri umani. Si parla di più di 1000 volontari tra donne e uomini, quindi ci collegheremo sia con il direttore scientifico di Pomezia che con uno dei ricercatori, sempre italiano anche lui, dell'Università di Oxford, per capire come è partita questa sperimentazione e che speranze anche dà. Poi, per quanto riguarda le mascherine, strumento assolutamente indispensabile, lo è stato finora, lo sarà ancora nella fase 2 e sul quale ci sono state tante polemiche, dibattimenti, soprattutto per la mancanza di queste benedette mascherine. Oggi la Federpharma, quindi i farmacisti, lanciano un appello e dicono: o qui si decide di mettere un tetto, un prezzo fisso sulle mascherine, oppure stop alle vendite. Però il presidente di Federpharma, sempre qua a Effetto Notte, quindi allacciate le cinture, tante cose da raccontare, da capire. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, 349-238-6666. Altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi sempre giorno e notte per i vostri commenti. Twitter durante il giorno è Roby con la Y, lineetta bassa, Giordano. I dati sul coronavirus in Italia, per la prima volta i numeri sono particolarmente confortanti, ha detto il capo della Protezione Civile Borrelli. Il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel paese. Le misure economiche del governo, sul tavolo dell'esecutivo i numeri dell'emergenza economica, PIL giù dell'8%, scostamento del deficit da 55 miliardi. Il Consiglio Europeo, Conte sottolinea, Recovery Fund strumento urgente e l'Unione Europea dice sì alla sua richiesta. Fase 2, dallo smart working ai turni su 7 giorni, mascherine in spazi comuni e mezzi pubblici. E sulle mascherine arriva l'ultimatum dei farmacisti, accordo sul prezzo o stop alle vendite. Vaccino in partnership tra Italia e Gran Bretagna, oggi è partita la sperimentazione su esseri umani in Inghilterra e a Effetto Notte ci saranno due dei protagonisti della sperimentazione più importante d'Europa. Calcio, l'esecutivo dell'UEFA sblocca 70 milioni per aiutare i club, in Europa ne beneficeranno 676 squadre delle 55 federazioni. Intanto rinviate a luglio del 2022 il campionato europeo di calcio femminile e la CT Bertolini dice ha vinto il buonsenso. Dal 4 maggio riprendono Lotto e Superenalotto, le estrazioni effettuate nel rispetto della sicurezza. Partiamo quindi dai dati quotidiani della Protezione Civile sul coronavirus in Italia. Il numero dei contagiati totali nel nostro paese, compresi morti e guariti, è di 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646. Continua comunque per il quarto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus nel nostro paese. Sono 106.848 gli attualmente positivi, 851 in meno di ieri. È il calo maggiore dall'inizio dell'emergenza. Tanto da far dire al capo della Protezione Civile Borrelli che per la prima volta i numeri sono particolarmente confortanti. Il numero di dimessi e guariti, ha detto, supera il numero di nuovi casi nel paese. Sono sempre tante le vittime, il numero totale al momento è 25.549, con un incremento di 464 in un giorno. E sono 57.576 i guariti da coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.033, appunto il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Sono oltre 1 milione gli italiani che sono stati sottoposti a tampone. Dai dati della Protezione Civile emerge che gli esami effettuati fino ad oggi sono stati infatti 1.579.909. Per quanto riguarda la Lombardia, sono 70.165 i positivi al coronavirus, 1.073 in più di ieri. I decessi sono arrivati in Lombardia 12.940 più 200 rispetto a ieri. Il fronte sanitario, pur nella massima cautela, fa comunque ben sperare, questo nell'ottica di un allentamento del lockdown a partire dal 4 maggio. Sarà il Premier Conte, dopo un nuovo confronto con parti sociali ed enti locali, ad annunciare sabato le modalità per la ripresa delle attività dopo il 4 maggio, nuove norme che dovrebbero essere valide su tutto il territorio nazionale. La ministra Dadone ha fatto sapere che nella pubblica amministrazione, anche nella fase 2, lo smart working resterà la modalità di lavoro ordinaria. La ripresa delle attività produttive dal 4 maggio coinvolgerà quasi 3 milioni di italiani. L'INAIL ha chiesto di rendere obbligatorio l'uso della mascherina per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni. L'uscita dal lockdown porterà ad un allentamento delle norme sugli spostamenti. Dovrebbero essere consentiti anche quelli fuori dal comune di residenza, ma non quelli fra una regione e l'altra. È atteso poi il via libera alle passeggiate e all'attività sportiva all'aperto, anche lontano da casa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di fase 2, non solo fase 2, ma insomma sulle mascherine arriva l'ultimatum dei farmacisti che dicono o si trova un accordo sul prezzo delle mascherine o stop alle vendite. A Fettonote in questa puntata ci sarà il segretario nazionale di Federpharma. E poco fa, al termine del Consiglio europeo per decidere quali strumenti utilizzare per affrontare la crisi economica, il Presidente del Consiglio si è detto al momento soddisfatto sulla sua richiesta urgente di Recovery Fund. Tutti e 27 paesi abbiamo accettato di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. E poi torneremo su questa conclusione al momento del Consiglio europeo e sulle scelte di Bruxelles. Sul fronte delle risorse dipendono anche quelle messe in campo nel prossimo decreto di aprile dal governo. Stasera il Consiglio dei Ministri è chiamato a varare il documento di programmazione economico-finanziaria. 55 miliardi di euro. A tanto ammonta lo scostamento di bilancio che il governo sarebbe orientato a chiedere al Parlamento per finanziare il nuovo decreto di aprile contro la crisi scatenata dal coronavirus. L'esecutivo intende destinare queste risorse al potenziamento delle misure per lavoratori, imprese, famiglie, sanità e protezione civile. Fra gli interventi allo studio ci sarebbero 10 miliardi per le imprese, 13 destinati agli ammortizzatori sociali e 12 ai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Il governo è anche al lavoro su tabelle e numeri del documento di economia e finanza da inviare in Parlamento e entro fine mese da ricapitare a Bruxelles. Le tabelle del DEF dovrebbero registrare un calo del PIL intorno all'8%, un deficit poco oltre il 10% e un debito fino al 155%. I numeri saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri, che non è escluso si possa riunire in tarda serata. Tutto dipenderà dai tempi del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per ora non si ne ha notizia, comunque naturalmente vi aggiorno man mano. Fondamentali le risorse naturalmente per famiglie e imprese, non solo l'ammontare degli aiuti ma anche tempi e burocrazia facilitata per accedere alla liquidità. Dall'ABI, l'Associazione delle Banche, i primi numeri sulle domande di moratoria dei prestiti presentate. Sulle moratorie, al 3 aprile sono state raccolte 660.000 domande di sospensione di imprese e famiglie contro le 450.000 della crisi 2009-2019. Così in audizione alla Camera il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini. Questi dati dimostrano che quella misura sta funzionando. Quello che si è determinato in nemmeno 2 settimane equivale a quello che era accaduto in 10 anni. Sui finanziamenti fino a 25.000 euro, Sabatini ribadisce, non servono bilanci o dichiarazione dei redditi. La procedura è semplice e si conclude in 24-72 ore. A ieri sono state presentate 2.000 domande, riferisce Mediocredito. Le altre saranno disponibili alle banche da lunedì. E dal presidente Consob Paolo Savona arriva un chiarimento su Borsa Italiana. Abbiamo ricevuto forte pressioni dall'interno del paese per chiudere tutte le contrattazioni di borsa, poteri che la Consob non ha.

momento chiusi. Intanto in Francia il progressivo ritorno a scuola dall'11 maggio avverrà su base volontaria dei genitori e senza obblighi. L'Eliseo valuta poi l'obbligo di mascherine e distanze di sicurezza nei trasporti pubblici e precisa che la fine del confinamento non avverrà su base regionale. La Svezia ha annunciato che sono più di 2.000 le vittime dall'inizio della pandemia. Nel paese si registra un livello di mortalità nettamente più elevato di quello osservato nei paesi vicini. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi le notizie sul vaccino. Oggi è partita la sperimentazione su esseri umani in Inghilterra, in partnership tra Italia e Gran Bretagna. Effetto notte, sentirete, ci collegheremo tra poco, due protagonisti di questa sperimentazione, la sperimentazione più importante in questo momento in Europa. Per lo sport, il calcio, la UEFA, l'esecutivo dell'UEFA, dell'organismo del calcio europeo, sblocca 70 milioni per aiutare i club. In Europa ne beneficeranno 676 squadre delle 55 federazioni. In più, sempre l'UEFA ha deciso di rinviare a luglio del 2022 i campionati europei di calcio femminile. La CT Bertolini ha detto ha vinto il buon senso, è una decisione, ha detto, presa per il bene del calcio femminile, per favorirne la crescita garantendo all'evento la migliore visibilità. Bene, con questo direi che possiamo al momento proprio congedarci molto brevemente, così cominciamo tra poco a addentrarci in alcuni argomenti molto importanti con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, dice per esempio questo ascoltatore. Ah, ecco questa notizia che dovevo dare in fondo, appunto, che dal 4 maggio riprenderanno Lotto e Superenalotto e quanto previsto da un nuovo decreto dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla ripresa delle attività dopo la storica sospensione totale di giochi e lotterie decisa il 21 marzo scorso. Questo l'avevo detto prima nei titoli, e già un ascoltatore molto pronto è intervenuto dicendo: trovo incredibile che riapra il gioco del Lotto quando c'è gente alla fame e vogliono forse far spendere gli ultimi soldi ai poveracci che sono giocatori incalliti. Magari ne parliamo dopo. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Lo sapete che a quest'ora sempre trovate questi 60 minuti ricchissimi di informazioni, di notizie, la sintesi della giornata, gli aggiornamenti in diretta e poi i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. E sempre con voi, naturalmente, Roberta Giordano a raccontarvi le cose più importanti dall'Italia e dall'estero, in modo che un giorno non dovrete dire io questa non la sapevo. Chiede questo ascoltatore: ma quando cambierà l'argomento di conversazione? Quando? È una bella domanda e non vediamo tutti loro, naturalmente, a partire da me personalmente. Comunque adesso parleremo di cose ovviamente importanti, quando mai parliamo di cose importanti qui a Effetto Notte. C'è Francis da Caravaggio che scrive: non voglio fare la Cassandra, ma il virus che sta spopolando è il segnale di una terra maltrattata ferocemente dall'uomo, che si sta vendicando e ripaga con la stessa implacabile moneta. Già, insomma, diversi scienziati, tra cui Ilaria Capua, scienziata all'estero, più volte ha detto che naturalmente il fatto di aver cambiato certe cose, effettivamente di per esempio anche solo in questi mercati di animali selvatici tutti ammassati, né senza igiene e anche con crudeltà in questi mercati orientali, in particolare in Cina, e praticamente macellati lì sul posto, megalopoli, poi fanno sì che appunto il virus passi dagli animali ad altri animali che siamo noi, e da lì, vista la globalizzazione, si propaghi un po' dappertutto. Molti parlano anche della deforestazione, di comunque del, diciamo, tutto un assetto di ecosistema ambientale che comunque certamente noi esseri umani abbiamo ben contribuito a modificare. Adesso comunque parliamo di come risolvere, o almeno sperare di risolvere, la situazione in cui ci troviamo. Allora, sapete che sempre per quanto riguarda il coronavirus, naturalmente il tema dei temi è il vaccino, ciò che tutto il mondo attende con grande ansia, con grande speranza, poiché, lo si continua a ripetere, l'unica vera arma per sconfiggere il coronavirus, che decine di migliaia di vittime sta provocando in tutto il mondo, ogni giorno dobbiamo dare questi numeri purtroppo, e che sta tenendo appunto in ostaggio il mondo, e che serve non solo per salvarci, ma anche e soprattutto per poter tornare davvero un giorno alla normalità. Vi ho ricordato più volte che alacri ricerche si stanno facendo un po' in tutto il mondo per quanto riguarda il vaccino. In vari laboratori si sta cercando di mettere a punto il vaccino. A questo traguardo fondamentale, vi raccontavo giorni fa, sta lavorando l'italiana Advent IRBM di Pomezia, vicino Roma, in partnership con la Jenner Institute dell'Oxford University. Giorni fa qui a Effetto Notte è stato ospite il direttore scientifico di IRBM, e aveva annunciato che a fine aprile sarebbero iniziati i test accelerati sugli esseri umani del suo vaccino, su almeno 500 volontari in Inghilterra, che però sembra che siano diventati molto di più. E allora saluto con orgoglio due eccellenze italiane, che sono per l'appunto Carlo Toniatti, medico biologo nonché direttore scientifico di IRBM. Buonasera, specializzata nella ricerca di farmaci, nei cui laboratori di chimica e biologia, vi ricordo, è stato scoperto tra l'altro il vaccino anti-Ebola. Cervello di ritorno da Houston, il nostro Carlo Toniatti. E poi c'è Giacomo Gorini, immunologo al Jenner Institute della Oxford University, anche lui un italiano che invece non è tornato, buonasera. Ma sta lì felicemente. Gorini, buonasera. Buonasera. Sì, sto bene qui, buonasera a lei, agli ascoltatori e al collega da IRBM. Allora, dottor Toniatti, quindi vogliamo così riassumere brevemente la messa a punto di questo vaccino, l'importanza e qual è la situazione attuale? Sì, no, certamente, come detto qualche giorno fa, è una piattaforma che è stata già utilizzata in passato, e come detto sempre qualche giorno fa, è un esempio secondo me di una brillantissima collaborazione con i colleghi dello Jenner Institute, che sono dei maestri nel campo dei vaccini. E la piattaforma è già stata utilizzata, questo quindi ha permesso di saltare qualche passaggio durante lo sviluppo del vaccino. Non si è dovuto andare attraverso tutte quelle fasi della sperimentazione clinica, in cui bisogna salire con la dose prima preoccuparsi di dimostrare che il vaccino non è tossico. Si è potuto andare direttamente in studi di efficacia. Qui, a parte che mi fa molto piacere avere un collegamento, un collega italiano che io non conosco personalmente, ma conosco di nome, sono stati bravissimi i colleghi della Jenner Institute, perché a parte proprio tutta la biologia che sta dietro questo lavoro, sono stati bravissimi anche nell'organizzazione della sperimentazione clinica, hanno bruciato le tappe, e complimenti a loro, complimenti a noi. Complimenti naturalmente a entrambi, altrimenti senza questa partnership non sarebbe stato possibile. Lei, quando parla di piattaforma che già c'era, diciamo in termini semplici, è una base già di questo vaccino che c'era? È un modo di fare un vaccino che è stato già studiato negli anni passati. Si prende un virus che normalmente non ha nessuna malattia nell'uomo, lo si modifica ulteriormente, questo in particolare è un adenovirus. Nel caso particolare poi viene anche da un'altra specie per motivi particolarmente biologici, particolarmente complicati, che non è magari il caso di entrare troppo in dettaglio oggi. Si prende questo virus e lo si usa come un cavallo di Troia per fargli esprimere le proteine del coronavirus. Lo si costruisce praticamente in laboratorio e poi lo si inietta nell'uomo, in maniera che l'uomo incontri le proteine del coronavirus, però portate da un virus che di per sé non dà nessuna malattia, e sviluppi una risposta immune contro queste proteine, che poi sono quelle che il coronavirus, questo particolare coronavirus, il SARS-CoV-2, utilizza per legarsi alle cellule umane. Quindi è un, come dire, si cerca di camuffare il virus in maniera tale che comunque venga, si abbia una risposta immune protettiva. Allora, intanto oggi il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli, ha detto che si stanno sperimentando due potenziali vaccini negli Stati Uniti, uno in Inghilterra, che è appunto questo, uno in Germania, uno in Cina. Questo però mi risulta essere tra l'altro il progetto più importante di sperimentazione a livello europeo. Mi conferma, Gorini? Sì, come diceva il collega Togliatti, il fatto che noi conosciamo questo vaccino. Gorini, la sentiamo piuttosto male, è vero che è lontano a Oxford, però riesce a parlare più nella cornetta o nell'auricolare? Ecco, meglio così. Perfetto, grazie. Ecco, chiedo scusa. Prego, ci mancherebbe. Come diceva il collega Togliatti, il vantaggio di questo vaccino che stiamo testando a Oxford è che l'abbiamo già visto in passato contro malattie diverse. Quindi è vero, ci sono tantissimi progetti interessanti che sono in sviluppo nel mondo e questa è una grande fortuna. Però se devo fare una previsione e se vogliamo farne un discorso di tempo, il primo vaccino che arriverà non sarà una tecnologia ultra innovativa che è appena stata sviluppata, perché questa è proprio il tipo di tecnologia che ha bisogno dei controlli più rigorosi e più duraturi. Il nostro vantaggio è che stiamo utilizzando una tecnologia certo innovativa, ma che comunque ha già un forte record di sicurezza. Gli enti regolatori di Londra l'hanno vista e rivista, per questo ci hanno dato il permesso di procedere con delle fasi adesso di studio che permettono di reclutare un maggior numero di volontari e quindi trovarci avanti nella tabella di marcia. Mi pare che siano più di 1000 volontari, donne e uomini, no? Con un'età tra i 18 e i 55 anni, se non sbaglio, Gorini? Sì, procediamo per fasi, questo va detto. Quindi nella prima fase saranno 510 volontari e abbiamo iniziato la vaccinazione proprio oggi, tutto sta andando bene. E poi procederemo in una fase più grande che potrà dare un potere statistico molto solido per valutare l'efficacia di questo vaccino, parliamo addirittura di 5.000 volontari. Perché poi andrete anche per fasce di età diverse, no? A un certo punto, Gorini. Sì, esatto, fra le due fasi, prima di procedere a quella di 5.000 saliremo con l'età, ecco, prima mi sembra che sarà dai 55 ai 70 e poi sopra i 70. Comunque faremo così, ecco. Toniati, quindi che tempi possiamo immaginare che ci siano adesso per questa fase 1, se non sbaglio questa è la fase 2, poi fase 1, poi bisogna passare alla fase 2, quindi ovviamente quello che ci aspettiamo noi è arrivare a un risultato per sapere lo possiamo usare, si può, tra l'altro bisognerà finanziarlo, produrlo eccetera eccetera, ma intanto capire se funziona, con che tempi lo capiremo, Toniati? Guardi, per capire che non funziona ci vuole poco tempo, purtroppo come abbiamo parlato l'altra volta, per capire che non funzioni veramente ci vuole poco, però insomma siamo ottimisti, ci sono tutte le basi per pensare che funzioni, quindi bisognerà capire quanto funziona e per quanto tempo, e direi che senza andare nei dettagli del disegno clinico, in 6 mesi si riescono ad avere moltissime informazioni, quindi diciamo che per settembre ci saranno moltissimi dati e si potrebbe andare in fasi molto più avanzate. Gorini, si parla di finanziamenti, mi pare che si siano stati almeno 24 milioni di euro da parte del governo britannico, ma poi ne avrete altri? Sì, questo è corretto, loro adesso hanno dato intanto questi 20 milioni di sterline, quindi immagino 24 milioni di euro per il nostro progetto, per il clinical trial qua a Oxford, e per la prima volta il governo si è reso totalmente disponibile per le nostre esigenze, ecco, è un interesse comune che il vaccino venga sviluppato il prima possibile, ovviamente in sicurezza. Allora, Toniati mi sembrava piuttosto ottimista, lei, Gorini, che è proprio lì sul campo, intanto dove si sta sperimentando, che sensazione ha? Guardi, da questa parte della manica lo studio è condotto dalla... Gorini, lei non ha, mi perdoni, lei non ha la mascherina in questo momento, no? Perché non c'è bisogno. No, giusto. Mi sentite ancora piano? Ora meglio. Ora meglio, okay. Sì, mi stava dicendo. Allora, sì. Sì, che da questa parte della Manica lo studio è gestito dalla professoressa Gilbert, che ha decenni di esperienza. Sì, esatto, lei ha decenni di esperienza sullo sviluppo di vaccini contro il coronavirus e contro i coronavirus. E anche lei si dice molto ottimista, ecco. Poi io voglio ricordare agli ascoltatori che il mondo sta diversificando gli esperimenti, vale a dire ci sono tanti progetti vaccino in corso in questo momento, quindi io sarei felice vedendo il sacrificio che stanno facendo i miei colleghi se fosse proprio il nostro funzionare, però c'è anche dell'ottimismo dovuto al fatto che il mondo scientifico si sta muovendo molto bene per sconfiggere questo avversario comune. Questa è la cosa bella, nel senso che al di là del, almeno nei primi tempi, e speriamo che nessuno stia facendo lo stesso, quando addirittura il presidente americano Trump aveva cercato di comprare in esclusiva mondiale, mi pare da un laboratorio della Germania o dell'Olanda, il vaccino solo per gli americani, o almeno America First, per poi eventualmente darlo agli altri, invece è bello che ci sia questa coralità, visto che riguarda tutti, tutto il mondo, e quindi dove si dovesse poi capire che è quel vaccino che funziona, ne dobbiamo avere la possibilità ovviamente di usufruirne tutti il prima possibile, Guarini, giusto? Sì, giusto. Quello però non è solo uno sforzo scientifico renderlo disponibile per tutti. Ci vorrà ovviamente collaborazione delle istituzioni e degli enti che gestiscono i fondi. Devo dire, se lo spirito continua a essere quello che abbiamo visto adesso, certo ci vorrà del tempo per produrre, distribuire e somministrare le tantissime dosi di cui la popolazione avrà bisogno. Però, di nuovo, se continua questo spirito collaborativo, magari avremo delle buone sorprese, ecco. Quindi ce la potremmo fare magari prima della fine del 2020? No, questo è difficile dirlo. Non è che aspetteremo ad avere le centinaia di milioni di dosi prima di distribuire la prima. Sarà una distribuzione per gradi. Poi adesso sulle tempistiche è difficile discutere, perché il nostro gruppo si sta molto concentrando più sulla sperimentazione in questo momento. Comunque l'importante è che siete partiti, sì. E insomma, tra qualche mese, diceva Toniati, se non dovesse funzionare si capisce subito, se no per settembre qualche bella novità si avrà. Toniati, vuole aggiungere qualcosa? No, che entro il 2020 insomma, è ambizioso, però mi associo a quello che ha detto il collega, proprio non c'è una virgola da cui mi possa dissociare. Anzi, l'ideale sarebbe anche, onestamente, che più di un vaccino funzioni, anche per questo problema di che è un bel problema da avere, della produzione. Insomma, se ce ne fosse più di uno, chiaro, sarebbe un po' più facile distribuirlo non si sa nemmeno a quanto poi bisognerà farlo, questo sarebbe, ci vorremmo un'altra trasmissione per questi numeri. ce ne saranno, dottor Carlo Toniati. Intanto, mai come in questo momento, bisogna dire che l'unione e la solidarietà fa la forza. Quindi ringrazio il dottor Carlo Toniati, che è appunto direttore scientifico del laboratorio IRBM di Pomezia, e Giacomo Gorini, immunologo allo Jenner Institute della Oxford University, due eccellenze italiane di cui possiamo essere molto orgogliosi. Buon lavoro dunque, siamo nelle vostre mani. Grazie Toniati. Grazie Guarini. Grazie, buonasera. Grazie, buona serata. Bene, qui speranzosi, poi ritorneremo naturalmente appena possibile, quando ci saranno dei risultati, a parlarne. Intanto vediamo se succede qualcos'altro anche in altre parti del mondo. Però per il momento piccola pausa di riflessione, di sospensione. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Ma questi volontari, chiede un ascoltatore, sono contagiati dal virus? Diciamo che, come spiegavano i due esperti, sono comunque stata già verificata la non tossicità di questo vaccino, di questo vaccino che si sta sperimentando. Questo già lo si sa, bisogna vedere se è efficace, quindi non credo che si tratti di contagiati dal virus. E comunque, insomma, al di là di quelle che sono poi i tecnicismi o le cose più nel dettaglio che riguardano l'utilizzo di questo vaccino, l'importante è che si abbiano presto dei risultati e che facciano, insomma, ben sperare. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State state ascoltando attualmente Effetto Notte, ci mancherebbe, siete al posto giusto nel momento giusto, sia perché state ascoltando Effetto Notte, sia perché siete sicuramente a casa, ancora almeno per un po', tranne se avete degli orari particolari di lavoro. Aspettiamo con ansia questa fase 2, proprio per questo abbiamo appena parlato finora del vaccino che adesso stanno sperimentando dopo la messa a punto tra laboratorio di Pomezia vicino Roma e il prestigioso Jenner Institute dell'Oxford University. Ne abbiamo parlato con il direttore scientifico del laboratorio di Pomezia, IRBM, e con un ricercatore italiano, un immunologo proprio dello Jenner Institute. Eravamo in collegamento con la Oxford University. Adesso vedo per esempio questo ascoltatore che dice ciao Roberta, quello che fa davvero male è leggere persone che ora già raccomandano di non fare il vaccino, qualsiasi cosa arrivi, a costoro sembra invisibile l'enorme danno in termini di vite, nonché la crisi economica conseguente questa pandemia, senza parola. Lo so che stanno girando sui social, gira di tutto. Cercate di intanto di informarvi con l'informazione certificata, quella per esempio di Radio 24 e in particolare di Effetto Notte, e di dare poco ascolto ai social, di guardare tanti appunto media, quelli seri, di ascoltare, di leggere eccetera. Fatemi la vostra opinione, però adesso mi sembra che diciamo questa tragedia mondiale sia un po' sotto gli occhi di tutti. Poi vedremo quali saranno i risultati per questo vaccino di cui parlavamo, oppure di altri che potrebbero avere insomma dei risultati positivi in altre parti del mondo. È il primo passo per una riflessione per come l'Europa intende rispondere nel medio e nel lungo termine alla esigenza di una ricostruzione della propria economia. L'abbiamo chiamato il nuovo piano Marshall, con una differenza che i soldi non arriveranno dall'estero ma dalle economie europee. Dobbiamo farlo con uno spirito di forte solidarietà. A parlare è il presidente ha parlato oggi il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, parlando appunto di questo che viene definito piano Marshall, sempre riferendosi a quel piano americano per la rinascita dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale e non solo per l'Italia. Questo invece è il momento di capire che strumenti economici, finanziari utilizzare per quest'altra grandissima crisi, che è solo appunto seconda al dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale. Oggi c'era questo importante Consiglio europeo proprio per definire un piano di anticrisi in seno all'Unione Europea, in particolare per i paesi più in difficoltà, tra cui l'Italia. Saluto su questo il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Bentornato Alberto. Buonasera a tutti. Allora, si parla di questo strumento dei recovery fund e su questo ha parlato subito dopo il Consiglio europeo Conte, molto brevemente, aspettavamo una conferenza stampa più lunga, però si è detto, e poi lo sentiremo, soddisfatto intanto di un accordo sulla sua richiesta. Sentiamo un primo passaggio. Tutti e 27 paesi abbiamo accettato di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. E poi ha detto è uno strumento impensabile, anzi fino a poco tempo fa. È passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario, l'Italia è in prima fila a chiederlo, e devo dire la verità che la nostra iniziativa con la lettera firmata agli altri 8 paesi è stata molto importante, perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile sino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace. Allora Alberto, prima ti chiederò di spiegarci bene in cosa consistano questi recovery fund e poi ti leggo intanto così qua e là alcuni commenti degli esponenti politici. Zingaretti, segretario del Partito Democratico, dice l'Unione Europea ha compreso l'importanza della proposta di Conte. Salvini invece ha detto è il totale fallimento questa cosa raggiunta da Conte, questa soluzione. Poi ha parlato anche Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia, ha detto domani ci sarà un ordine del giorno sul MES, ognuno si assuma le proprie responsabilità, mentre Di Maio dice recovery fund sono il primo importante risultato. Come dobbiamo leggere quindi questa prima conclusione del Consiglio europeo, che è sembrato più interlocutorio che altro prima di prendere decisioni, no, definitive, Alberto? Beh, sul tema dei recovery fund sicuramente interlocutorio, come ci aspettavamo, è il prosieguo dell'Eurogruppo che ha messo in campo questo tipo di strumento. Che strumento che è? Conta, che cos'è? Che strumento? Diciamo, quello che conta è che c'è questa volontà solidale dei 27 di costituire uno strumento di debito comune, diciamo così. Per ora si sa, e l'accordo è arrivato solo fino qui, che i denari verranno trovati all'interno del bilancio europeo, quello settennale, di programmazione settennale, che verrà modificato e ampliato anche a fronte di nuove erogazioni da parte degli Stati membri. Oggi, ricordiamolo, il budget è poco più dell'1% del PIL europeo, quindi è pochissima cosa, con una modalità che però consente, con un effetto leva, come dicono quelli bravi in finanza, diciamo così, di mobilitare risorse molto maggiori, nel senso potrebbe essere per esempio un duplice appostamento, una parte diretta di spesa, poca cosa, a fronte di una parte indiretta di impegni che puoi contabilizzare in due modi diversi all'interno del bilancio europeo. Sulla base di questo, che di fatto stabiliscono delle garanzie pubbliche europee, è possibile emettere titoli per un valore superiore a quello degli stanziamenti effettivi che trovi nel bilancio europeo, che probabilmente ti compra la BCE, emissioni di titoli europei dirette, che sono naturalmente a un rating altissimo perché c'è la AAA, non c'è più il problema degli spread tra i diversi stati, perché è un'indicazione di tasso unica ed è il tasso migliore per tutti, chiaramente, quindi sono titoli anche molto convenienti, che vengono quindi messi sul mercato per creare una provvista di denari con i quali l'Europa deve finanziare la ricostruzione e organizzare il piano Marshall. Dove casca l'asino, come ha spiegato benissimo Macron alla fine della riunione del Consiglio europeo, c'è l'accordo per fare questo fondo, non c'è ancora l'accordo su come vada strutturato e a che cosa debba servire, se per erogare prestiti o per erogare direttamente sussidi, cioè andare a fondo perduto. Non quindi è una non essere cosa. Restituiti, insomma, se sono a fondo perduto non devono essere restituiti, altrimenti invece esatto. Sì. Naturalmente il fondo perduto sarebbe la battaglia italiana, perché è evidente che un paese molto indebitato come il nostro a collarsi di nuovo un ulteriore debito, per quanto super garantito e a bassità e a bassi costi, è comunque un debito ulteriore, certo. Quindi non è che sia la condizione ideale. Ma tu lo vedi possibile che gli altri accettino di ma questa è una cosa di cui si sta discutendo, perché in effetti uno spazio negoziale c'è uno spazio, credo che ci siano, c'è un forte lavorio tecnico per arrivare magari a un mix delle due cose. La partita è aperta, non è una battaglia di breve periodo, se ne ritorneranno a parlarne un po' più nel dettaglio il 6 maggio, ma questa cosa arriverà molto più in là. Naturalmente, e parliamo solo di stile comunicativo, questa cosa ha creato un gigantesco fumogeno su quello che effettivamente ha fatto oggi il Consiglio europeo. Il Consiglio europeo ha sancito il piano a tre gambe che era stato deciso dall'Eurogruppo, cioè il fondo SURE da 100 miliardi per finanziare la disoccupazione attraverso appunto un'erogazione europea unitaria, i 200 miliardi della BEI per finanziare investimenti infrastrutturali e per anche qui per elementi di ricostruzione, e il mitico MES che mette in campo fondo i soldi denari, il fondo salva stati senza condizionalità, come è stato sempre detto, la cui quota per l'Italia sarebbe questi di 36 miliardi. Questo è quello che ha fatto oggi materialmente e fisicamente il Consiglio europeo. Un pacchetto, naturalmente, insomma. Del MES non se ne parla più, si parla della straordinaria conquista politica del Recovery Fund, che va benissimo, e per fortuna, dico io, il MES è uscito dal tavolo, ma è effettivamente, così come ho sempre sostenuto, i suoi grandi nemici hanno fatto passare la TAV, e lo stesso è passato il MES, con lo stesso tipo di principio. Ora vedremo se l'Italia accederà a quel fondo o meno, in ogni caso è uno strumento che è sul tavolo ed è immediatamente mobilizzabile, come ha spiegato la Merkel oggi. Questo pacchetto di 500 miliardi è immediatamente mobilizzabile e sostanzialmente la data che si sono date è il 1 giugno. Del recovery fund invece se ne parlerà il prossimo anno, voglio dire prima che possa mettere in campo risorse vere. La partita è questa. Senti Alberto, sulla fase 2 intanto oggi hanno parlato di nuovo alcuni presidenti di regione, Zai ha detto noi siamo pronti, il Veneto ha una discesa importante dei dati, siamo pronti già a ripartire il 27 aprile, quindi ancora prima della data fatidica dell'inizio della fase 2 il 4 maggio. Allora anche Toti, presidente della Liguria, ha detto la Liguria chiede che venga riconosciuta alle regioni l'autonomia di applicare le regole tenendo conto delle esigenze e delle differenze tra territori, anche se finora è stato detto che ci sarà un piano nazionale, poi le regioni hanno la possibilità di fare, diciamo, ordinanze, come è stato fatto finora, piani più restrittivi e non invece più aperti, però Toti chiede per il momento l'autonomia, poi vedremo un po' che cosa succederà. Mentre il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, fra le altre cose, oggi in conferenza stampa ha spiegato perché ancora non si può aprire la scuola. Dice: riaprire le scuole vorrebbe dire riportare l'indice di contagio R con 0 ben sopra l'1, quindi che ogni persona contagerebbe più di un'altra persona, no? Abbiamo fatto varie volte, abbiamo spiegato questi calcoli. Senti, poi invece un'altra cosa. Ieri Vittorio Colao, coordinatore della fase 2, aveva chiesto, fra le varie cose, a Conte di per il momento esonerare gli over 60 dal ritorno al lavoro il 4 maggio. Conte ha detto su questa cosa no, non è d'accordo. Allora sentiamo che cosa ha detto Fiorello, che praticamente il 16 maggio compie 60 anni. Salve, buongiorno, sono Rosario Fiorello, sono nato il 16 maggio del 1960, significa che il 16 maggio compirò 60 anni. Adesso quindi i 60 anni non possono uscire, io non ce li ho ancora, quindi io in pratica dal 4 maggio al 16 maggio potrei uscire, ma noi 60 anni dobbiamo fare fronte comune e dobbiamo dare retta a chi ci governa, per cui se dicono che i 60 anni devono stare a casa vuol dire che siamo persone a rischio, siamo persone da proteggere. Noi andiamo protetti, perché siamo un po' come il panda, come il cercopiteco, come il colibrì dell'Himalaya. Che ne pensi, Alberto, per chiudere? Ma insomma, sì, l'idea delle fasce d'età non è irrazionale, però probabilmente sono mettere le fasce d'età un po' più in alto, ovviamente. 60 anni non mi sembra una categoria particolarmente a rischio, anche a giudicare poi dai dati che hanno fornito gli stessi esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. Insomma, stiamo parlando di un'incidenza su gente che ha più di 80 anni, il grosso con tre malattie precedenti, insomma. Ti sembra un po' prematura, diciamo, come età. Come lineare, come si direbbe nel bilancio pubblico, su un'età così sostanzialmente ancora giovanile, cioè giovanile nel lavoro è un po' forte. Vabbè, ricordiamo che entro fine di questa settimana, quindi entro domenica, Conte ha promesso di delineare in modo concreto la fase 2, quindi tutti gli aspetti che riguardano la fase 2. In attesa ti saluto, Alberto Rioli, ti auguro buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, caro Alberto. Viabilità. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi, Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo allora con alcune notizie da approfondire. Roberta Giordano sempre con voi. Allora, all'inizio di questa puntata con i primi due ospiti abbiamo parlato del tema dei temi legato al coronavirus, che è quello del vaccino. L'abbiamo parlato a proposito della sperimentazione che è iniziata oggi in partnership tra il laboratorio italiano di Pomezia, IRBM, e lo Jenner Institute della Oxford University, con il direttore scientifico della prima e con l'immunologo dello Jenner Institute in collegamento, quindi da Oxford. Ma in attesa del vaccino sicuramente il dispositivo che è stato al centro e continua a essere al centro di dibattiti, di molte polemiche, soprattutto per la penuria, in particolare per personale medico-sanitario, è la famosa mascherina. Tra l'altro sarebbe più che indispensabile per la fase 2. Ancora se ne trovano poche, ancora adesso, dopo tante vergognose speculazioni che sappiamo, mantengono un prezzo piuttosto alto. Allora, i farmacisti lanciano un appello, direi un ultimatum. Dicono: bisogna raggiungere un accordo sul prezzo delle mascherine imponendo un costo fisso, oppure i farmacisti saranno costretti a decidere uno stop alle vendite. Allora coinvolgo su questo Roberto Tobia, che è segretario nazionale di Federpharma, che rappresenta oltre 16.000 farmacie private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Tobia, buonasera. Buonasera a voi. Quindi a che punto siamo? Siete piuttosto arrabbiati su questo aspetto? Diciamo che Federpharma stende delle risposte a tanti interrogativi che purtroppo ancora non hanno avuto soluzione. Abbiamo segnalato a più riprese sin dall'inizio del mese di marzo a tutte le amministrazioni competenti, quindi ai ministeri della salute, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della Protezione Civile, e una serie di chiarimenti per fare in modo che le farmacie potessero in qualche modo vendere le mascherine, quindi svolgere il ruolo che vogliono svolgere in favore della popolazione, dei nostri pazienti, a prezzi imposti, senza soprattutto tutti quegli inutili adempimenti burocratici che si ripercuotono sul servizio ai cittadini. Del resto lo sappiamo da tempo, il decreto della Presidenza del Consiglio, il 18 del 2020, dà la possibilità agli importatori e a chi commercializza le mascherine e quindi anche a chi le mette sul mercato come le farmacie di superare una serie di adempimenti burocratici che rendono veramente la vita difficile. Ma ci siamo posti in una posizione di assoluta collaborazione con le istituzioni, abbiamo anche proposto di distribuire gratuitamente le mascherine provenienti dal canale della Protezione Civile, abbiamo chiesto in alternativa di stabilire un margine inferiore a quello del farmaco etico in maniera tale da consentire alle farmacie di definire prezzi che siano sostenibili per la collettività e per la farmacia stessa. In alternativa abbiamo chiesto al commissario Arcuri l'indicazione di un prezzo imposto. Tutto questo però va contro quelle che sono, che è il silenzio assordante di delle istituzioni che in questo momento non danno risposte concrete. Cioè? Abbiamo chiesto anche la possibilità di vendere le mascherine anche senza il marchio CE, facevo riferimento prima al decreto legge 18-2020, che prevede delle semplificazioni. Ma qui Tobia, per il momento non avete avuto risposte su questo? Non abbiamo avuto risposte, l'unica risposta che abbiamo avuto è stata quella relativa allo sconfezionamento, che legittima l'attività delle farmacie nello sconfezionare le confezioni multiple di mascherine nei propri laboratori con una procedura che è propria della farmacia. Che quindi senta, quello dello stop però, Tobia, adesso purtroppo dobbiamo lasciarci, è una minaccia? Avete già una data in mente quando iniziare, se non ricevete risposte? Quando arriva? Guardi, noi siamo sempre in una posizione assolutamente collaborativa nei confronti delle istituzioni. Allora, abbiamo messo in atto una serie di iniziative, le ribadisco, l'IVA al 4%, ancora non abbiamo risposte, abbiamo avuto l'accettazione di stima dalle autorità competenti, dallo Stato, dal capo dello Stato, dal Santo Padre, ma l'unico risultato che abbiamo ottenuto è relativamente quello allo spacchettamento. Di contro, purtroppo, abbiamo constatato che le autorità preposte con l'elevazione di pesantissime sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti burocratici stanno in qualche modo rendendo ancora più difficile la vita in farmacia. È stato chiarissimo. Roberto Tobia, il vostro appello è chiaro, mi sembra quanto mai di buon senso in questo momento così difficile, quindi aspettiamo di vedere in tempi brevi che ci siano delle risposte concrete dalle istituzioni. Grazie Roberto Tobia. Grazie a voi. Grazie segretario nazionale di Federfarma. Adesso siamo in corsa con Giuliano Pesel, che è medico del lavoro presso il Policlinico Triestino di Trieste, tra i medici che hanno sollevato la questione invece sui medici del lavoro. Riesce ad assumere Giuliano Pesel, mi perdoni, siamo un po' di corsa adesso. Buonasera. Buonasera. Riassumo brevemente. Ultimamente veniamo tirati in ballo sempre di più, anche nell'ultimo documento tecnico INAIL, come elementi fondanti della fase 2. Per fare questo però noi chiediamo di essere autorizzati insieme a laboratori che possono essere convenzionati, che possono rispondere a particolari caratteristiche, essere autorizzati a fare diagnosi di Covid, cioè ad usare i famosi test sierologici, eventualmente i tamponi nei casi di risposte positive ai test sierologici. Voi medici del lavoro, andate sui luoghi di lavoro e quindi avete bisogno, insomma, in questo momento che deve ripartire l'economia, dice, il vostro ruolo è fondamentale. Assolutamente, anche perché al momento tutta la diagnosi Covid viene fatta dalla sanità pubblica, però i laboratori e i sindacati ci chiedono delle risposte chiare. Non in tutte le aziende è possibile mantenere il distanziamento sociale, non tutti i lavoratori possono tenere per 8 ore la mascherina, pensiamo alle catene di montaggio, layout di aziende che non consentono il distanziamento, così come pensiamo alla difficoltà di certe mansioni lavorative. Quindi volete mettere in luce questi problemi? Nel senso sì, di andare... Assolutamente sì, e vogliamo offrire, per questo lo chiediamo alle istituzioni, offrire la possibilità di fare diagnosi direttamente nelle aziende per opera nostra. Non ho capito, direttamente nelle aziende? Per opera nostra, cioè noi vogliamo essere attivi nella fase diagnostica, vogliamo poter garantire ai laboratori la possibilità con test serologici e tamponi fatti da noi e eventualmente laboratori che siano anche privati, quindi non soltanto pubblici, gestire la fase di diagnosi, quindi garantire ai laboratori che magari sono stati già dal lavoro per 50, per 60 giorni un controllo prima di rientrare al lavoro, oppure a lavoratori che sono di pubblica utilità, che non si sono mai fermati e che magari sono stati esposti. Quindi volete mettervi insomma in campo, in primo piano, per rendere al meglio questa fase 2 di ripresa del lavoro e dell'economia. Mi pare insomma questo, anche questo. Questo è il nostro legittimo lavoro. Grazie dottor Giuliano Pesel. Grazie molte. Buonasera, buon lavoro. Buon lavoro a lei. Ci sentiamo alle 22.